sempre, sempre. Poi, fin quando non si sono studiati i sistemi, che pure abbiamo studiato i sistemi, che oggi si attuano già da alcuni anni, allora era la questione del controtelaio. Si fornivano controtelai sia per le finestre che per le porte, arrivava con il falegname e l'installazione veniva fatta dal falegname. Ma quando prima si faceva all'antica, no? Che le porte, ad esempio le finestre e le persiane cerca di cassare il muratore, mamma mia quanti disastri, tu non te lo immagini, più di una volta dovevi andare lì, ti cassavano le porte, poi andava e toccavano la schiava o per terra o di fianco, dovevi sempre andare lì e toccare. Ma quando mai, ragazzi, sei una vita aspettando porte e non riesci a mettere quattro gaffe attaccate al muro in maniera giusta, non c'era rimedio. Ma nonostante tutto, che dopo sono venuti fuori il discorso dei controtelai, tanti controtelai, molte persone hanno avuto, hanno sempre delle difficoltà nel piazzare. Ad esempio, nel controtelai, il falegname, quando li prende fa, ti segna all'altezza di un metro, partendo dalla parte di sotto, no? Questo che cosa serve questo segno? Serve perché quel segno lì va messo allo stesso livello che il muratore tira con la pompa nei cantieri, tira il livello, allora lo segno è per un metro. Però se si va su il pavimento e tu la poi direttamente sotto dentro e poi va a fare il pavimento, quando arrivo io con la porta, il porta non ci sta più, non ci può stare, perché tu sei salito col pavimento e allora devi cominciare a tagliare l'archeria larga, la chitarra da sopra, per poter di buttare giù il contrario, se non ti devi arrangiare in mille maniere, oppure gli dici, non mi devi mettere gli ultimi pezzi dei batiscopa, non li devi mettere, perché quando metto i coprifili, se non il coprifilo non ci sta, invece loro sistematicamente rimuovono sino alla fine del legno con batiscopa, quando non è possibile fare l'incasso nel coprifilo, se loro non mi togliono il batiscopa. Ma poi dico, ma sono cose che abbiamo fatto milioni di volte, ma nonostante tutto loro ripetevano sempre lo stesso errore, passano in aria, bucci. Perché fanno di testa loro. Io mi ricordo quando facevo cantiere che ero ragazzo, subito dopo la scuola, il geometra che c'era, il geometra di Ida, che è sassarese, seguiva molto queste cose, proprio stava molto attento ai muratori e ai falegnami, collaborava molto con i falegnami, perché soprattutto quando arrivavano a fare queste cose, diceva guardi che domani c'è falegname, non arrivate con i battiscopa, ci lasciate il profilo del controtelaio libero in modo che prima montino tutto e poi voi finite, sì, arrivi ai falegnami, mi chiamavano, geometra, ha visto in quell'appartamento, perché io ho lavorato con Benassi, a porta a posto abbiamo fatto tutto quel villaggio, ho lavorato al Moresco assieme a loro, facevamo manutenzione eccetera, proprio appena uscito da Ricura, proprio per imparare, poi fossi rimasto, invece ho seguito i sistemi idrici, potevo fare tranquillamente edilizia perché mi piaceva molto di più. E quindi si attaccavano, ma se vi ho detto di fare così, perché non avete fatto, ci siamo dimenticati, quindi via. Allora fortunatamente si usava molto il battiscopo in legno, capite? Quindi era facile, si rifilava e via. Ma quando poi hanno iniziato a mettere il battiscopo in marmo, eccetera, e io di aggasino, staccare il pezzo, ristuccare, rifare, era un casino. Sì, infatti, sono errori che loro hanno fatto sempre, ancora oggi questi errori ne fanno. Non riesco a capire per quale motivo non debbano stare attenti e un pochino più responsabili. Poi mi sono fregato anche nei lavori degli altri. Ma io ho visto, ad esempio, mi sono andato molto lontano, quando stavano costruendo il palazzo lì a fianco dove sono io, in bottega, lì una volta c'era il meccanico con i materiali eccetera, hanno venduto e hanno costruito il palazzo. Io ho questi regolatori schiacciando i tubi dello scaldamento. Io sono entrato improvvisamente in una camera, sono entrato e c'era quattro cose fatte schiacciando i tubi dello scaldamento per dispetto, perché gli davano il colorato gli impianti di scaldamento passando per terra questi tubi e lui non li ha schiacciati. Qualcuno dice non dire niente, non c'è niente, sono di scienza l'impresa, ma io non me la frega niente, però ma che sembra giusto fare una cosa del genere, perché stanno già facendo un bassetto per coprire, capito? Si chiama a questo punto, cosa è successo? Beh, è passata, hanno finito la casa, hanno finito lo scalamento, la frutta vivo, perché giustamente c'erano i tubi schiacciati, ha dovuto mantenere l'impresa il pagamento e ce ne sono molti che c'erano i tubi schiacciati. E questo che vengono schiacciati, ma chi ha aperto qui il pavimento? Nessuno era, tutti quanti già l'hanno aperto, e chi è che l'ha schiacciato? Boh, ma quindi ci sono anche disonesti tante volte, certe persone, ma quando mai tu non impresa, non lo stai lavorando, ma questi rispetti, ma vai, esce un lavoramento, e sei un miserabile, sì, non è possibile qua. Le cose che ho visto io in cantiere tu, poi prova a lasciare qualche attrezzo, ma quello che vuoi, qualsiasi attrezzo, da una cosa più piccola alla cosa più grande, già tu, che cosa ci dà? Prima la trovi più, te la rubano tranquillamente in cantiere, è una vergogna, guarda. Quello era l'ordine del giorno, ma guarda che ancora oggi è. Ogni operaio nostro, soprattutto quelli della manutenzione, hanno le casse, no? Come si usavano in ferro col lucchetto. Quando poi, perché loro se ci sono emergenze lavorano anche il sabato, poi c'è un reperibile anche la domenica, ma altrimenti terminano il venerdì. E quando depositano tutta l'attrezzatura in officina, a sorso, pure i lucchetti pare, ti fasciano il lucchetto e si imbocca la roba da dentro. Sì, ma è così, è una vergogna, guarda. Sono per la tua, sono un po' legale dei disonesti, stiamo facendo lavoro e soprattutto rubando la cosa degli altri, no, non è possibile, ragazzi. Guarda, io un giorno sono andato nella campagna, nella zona di Villavolizia lì, questo tipo muratore, quando sono andato bene che ti faccio vedere la mia attrezzatura, e io ho tante cose, quando io sto facendo lavoro, no? Tipo, beh, addirittura c'era un moto piccolo, Raffita, lui era un operaio dipendente, non aveva mai lavorato a conto suo. Io voglio sapere come fa uno che non ha mai lavorato a conto suo e possedeva un moto piccolo. Poi c'erano dei monitori di quelli, io sapevo un moto piccolo, andami, quello con il motore, andami, tipo coso. Non quelli da monitore a mano, quelli che costano 1 milione. Costavano le moto, 1,2 milioni, 1,5 milioni, anche 2 milioni. Dopo un motore più grande, con la motore, quello è gasolio, basta una lavagna, tutto pieno di attrezzature. E io dico a me, ecco solo questa attrezzatura, come ha fatto a comprarla? Cosa ha fatto nel momento che è un dipendente, a questo non gli può servire, non pure vado a comprare a lui, perché? Perché ogni tanto io vedevo qualcosa da cantiere, ecco come, capito? Nel corso del tempo, negli anni, sapete, una bambina aveva di quelli, una mia era piena di attrezzature in campagna. Per carità, per carità. E magari quello l'ha agganciato, capito? So capito quali sono quelli. L'ha agganciato, guru goju, guru non se la drai, non se l'ha portato. Sì, ma così, sì, ti va a buttare, ti va a buttare. D'accordo, ti faccio contare già. Ma così, non va bene, grazie, talvolta che ti fanno lavorare, gli porti via anche la prestatura. La persona di sovesta, purtroppo così. Avanti Gianni. Buonasera a tutti, sto cercando di entrare a Porto Torre, sono già arrivato ai punti. Ciao Ramitosi! Ci ho spostato sul 5, visto che erano le 8:25. Mi sono spostato sul 5 mentre parlava Giulio. E ho detto Gianni, se sei qua siamo sul 10, non so se hai mai sentito. Però la verità non stavamo lasciando bianco. Ciao, buonasera, riprendi. No, ma io stavo ascoltando, mi stavo facendo compagnia lo stesso, va. No, sono andato sul 4, sul 5, non sento nessuno, stavo quasi per adesso proprio sul 10, provate se la fate voi. Ma state presi dal discorso, vabbè, capita a tutti. Sicuramente è troppo alta, si è alzata diciamo di potenza la radio e si sente così. E vabbè, per me non c'è problema, uno va là per cane, solo che se giri tutti i cani non c'è nessuno, sono sul 5, cosa fai? Vai lì dove c'è gente. Se tutti andassero sul 10, per dire, come prima, non ci sarebbe nessun problema, capito giù. Per dire Gio Maria, Graziano, quelli vanno sul 4 o sul 5, sul 10 non ci vanno mai. Quindi io li trovo sempre sul 5 o sul 4. Non ricordo, non è vero, e forse mi sono avvicinato troppo poco fa, stavo rubizzando dentro cassetta qua, mi sono avvicinato troppo al microfono, sarà per quello che ero troppo vicino, che mi sentivi male. Capito? Già, lo so, quello sì, è vero. Vabbè, comunque. Vabbè, non ci costa niente spazzolare, bisogna, allora ci prendiamo l'abitudine di spazzolare come una volta, così almeno, anche se c'è qualcuno che è spostato in un altro canale, lo rintracciamo ugualmente. Andate qua. Sì, sì, sì, no, non devi gridare giù, come te una volta va bene, forse stavi gridando troppo, abituato all'altro microfono, questo devi usare un po' di più, io sto parlando proprio piano piano. 20-30 centimetri. No, noi siamo spostati qua, anch'io ero sul 5 poco fa, stavo parlando con loro, poi siamo spostati qua perché c'è troppo QRM. Un bel capito, non fa, se entra qualcuno non lo senti, non lo senti, è micidiale quel canale, beh, qua è più pulita, però come hai detto tu, anch'io dove c'è gente mi fermo, se poi si sposta non mi sposto. Ci hanno spostati su 10 perché è un canale insomma che conosciamo tutti e quindi ci spostiamo qua, ma mi sono spostato anche sul 20 con Massimiliano a fare delle prove, stavo provando un microfono e poi siamo tornati qua sul canale 10. Avanti già. Io preferisco questo perché è meno rumoroso come canale, c'ho meno disturbi. Ah, io sono arrivato, dai, vi saluto e vi auguro un buon continuo questo, devo farmi qualche compra e poi torno a casa. Ciao, già, ci sentiamo dopo al limite, no, io sono a casa e c'ho gente anche stasera. Avanti Giulio. Ok, ciao già, ciao, ci sentiamo magari domani, perché dopo, no, io ti sento stanotte, se ti frequenta gli ascolto una volta con le cuffie, però non muoio. C'è la televisione che la segue mia moglie, ma comunque le cuffie già mai metto, anche ieri notte ho seguito, ieri notte piuttosto c'era Gianni Caprilua che non lo sentivo proprio per niente, è rimasto sino a tardi con Marco che stavano parlando, lo sentivo solo Marco ma lui non lo sentivo, stavo scendendo troppo basso Gianni, stavo scendendo, vabbè, comunque. Andare. Così è qua, è ancora una decina di minuti e poi si cena qua, è 8:10, giusti giusti, dunque, va bene così, vediamo un po' cosa combina la Roma, dopo la guardo la partita, vediamo un po' che cosa combina. Thank you. accendere l'armadio, tanto non è che li usavo, era giusto per accendere, per fare qualche passaggio. Ho lasciato l'FT1000, il 780 e il 7004 sopra, e sotto ci sono le due linee che, perché non c'era posto, quello ha bisogno di posto, è grandissimo, prende due radio e fate un conto, e mi hanno 92 radio in pari. Molto bene, ma hai detto che sono 200 watt l'acqua del potere, fase banda 200 watt, con l'alimentazione entrocontenuta, e questo è importante, così almeno eviti anche di usare l'alimentatore. Sicuramente è più performante così, quando l'apparecchiatura è alimentato da se stesso, diciamo così, con l'alimentatore interno, è più performante, senz'altro più serio, insomma, io penso che sia così. Molto molto bene, sempre così, sempre timbolo oppure Jesus, cos'è che manca è quello? No, questo è Jesus, FT1000D, la versione da 200 watt. Non ne avevo Jesus, adesso c'ho Jesus, poi avevo dei com, ce li ho tutte e tre. No, questo è un HF030, Giulio, solo HF030, il millone lo chiamano, perché è il più grande effetti che hanno fatto, il millone, il 1000D, lo chiamano il millone, di quanto è grande, perché il Mark 5 c'era l'alimentatore esterno, esteticamente non mi piace con l'alimentatore esterno, questo invece ce l'ha dentro il contenuto, quindi è ancora più grande del Mark 5, che è uscito dopo di questo. Si è uscito un paio d'anni dopo di questo, un anno dopo di questo, non so, però la stabilità delle radio sono molto molto simili, vanno molto bene tutte e due, c'hanno i quarti termostattati, il filtro meccanico, vanno molto bene, anche i 200 watt. Questo c'è l'alimentatore dentro il contenuto, quello là no, quello c'è l'esterno, quindi esteticamente no. L'ho visto com'è, però come radio sono molto simili, WFO, insomma, sono molto simili, tutto lì, infatti faccio i 50 mega, li faccio con 7400, l'HF completo lo faccio con questa qua, perché c'ha due ingressi in antenna, quindi ho messo un'antenna, quella per l'azione orizzontale filare, enorme, grande, Marco, e poi la direttiva dei 10 metri. Già va bene, già mi difendo bene, non ci sono problemi. È che ti ripeto, in questo periodo non ho molta voglia di stare in radio, mentre un paio di mesi fa, un mese fa, ero sempre in HF, in 10 metri, collegamenti, adesso sono, mi pare, già da qualche settimana che sono fermo, è una giovana, non ho voglia, la testa, no. Non è molto preparata, e due metri sto ascoltando, c'è il solito traffico giornaliero, e a volte sono cose che non mi interessa partecipare, quindi me ne sto in silenzio tutto quello. Certo, vabbè, un pochino di, diciamo così, di rallentamento ci vuole anche, a volte una persona ne ha bisogno anche. E rallentare un attimino l'attività e magari stare così in ascolto o perlomeno intervenire di meno, dai. Sì, beh certo, succede a chiunque, ma in tutte le cose, non solamente in fatto di radio, ma in qualsiasi cosa uno ha dei momenti magari meno brillanti, e allora fare così, perché giustamente deve rilassarsi. Poi non è solo uno si stressa troppo, capito? Va benissimo così, e come ricezione è ultima, no? Suppongo che sia ultima anche la ricezione, no? Beh, a quei livelli col quarto termostattato, i filtri meccanici, è un'altra guba, non hai avversari lì, non hai avversari, sei con radio ad alto livello, sia come ricevitore come trasmettitore, capito? Indubbiamente, anche considerando con quello che costa, puoi vedere che può valere forse un milione, prima che il caso. Se arriva un attimo, mia moglie mi ha chiamato per la cena. Sì, beh certo, qua stavo dicendo, con quello che costa la parecchio di genere, glielo credo che deve essere alla grande, proprio sia in trasmissione che in ricezione. Meglio voi, sono contento per te comunque. La passione purtroppo ci porta a tante cose. Io sono patente, se no magari pensi che anche io avrei fatto certe abbastanza intensa, ma non la potenza perché mi tengo questa, così la uso per ascoltare e io posso parlarci anche, non tutti i giorni, nemmeno con questa, solitamente uso un baracchino più delle volte, ma non va bene lo stesso. Mi sarà la presa adesso il 27, si sta di nuovo svegliando, la gente sta entrando più di prima e va bene così. Ok, vabbè dai, va, ascolto il tuo passaggio, poi riprendo per salutarti perché devo andare a cenare, mia moglie mi ha chiamato, ho appena sentito che ho sollevato la voce per farmi sentire giù, perché lui lì giù in intervenendo. Sì, sì, Giulio, non ti trattengo. E la passione, la passione, via via. Sacrifici, sacrifici ci vogliono anche per le passioni. Qualcuno dice che non è così. Via da Edo, vuol dire che va redina gottia gottia. Io non mangio di nave a parte, quindi faccio i passi piano piano e quando li posso fare, quando non li posso fare sto indietro. Ciao Giulio, ti saluto. Buon fine serata, le prossime, ci sentiamo domani. Io sto facendo il meglio, se quando ci siete entro, se no attento, giusto per tenere un po' alta la bandiera. E quando vuoi entrare si rimanghi a voi. Ciao Giulio, buon sabato, buon fine giornata, ci sentiamo alle prossime, grazie alle due chiacchiere. Saluto chiunque fosse in ascolto sul canale 10. Quando ci siamo entra, non ci sono problemi, quanto tempo ne scambiamo, ci mancherebbe altro. Sì, sì, va così, è così qua. E ti dice così vuol dire che il sacrificio non ha fatto così tanto pesante, ma mi rendo conto che uno per avere certe cose si deve sacrificare. E non solamente fisicamente, deve sacrificarsi anche mentalmente e per tante altre cose. Dunque, è giusto che così. Ti parla con la maniera, ancora non ho capito neanche della vita. Allora, ci sentiamo, alla prossima, dai. Buona serata e buona partita se guardi la roba. Io adesso accendo e poi accendo la televisione, così mi do anche la partita. Ok, ciao ancora qua, buonanotte. Mi prendi pure se vuoi ancora, io al limite ascolto al massimo un ulteriore saluto e poi chiudo, allora. Vai tranquillo, no, attendi giù a casa già.